Giornata prima, parte seconda di Dialogo dei massimi sistemi. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Emanuela. Dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei. Giornata prima, parte seconda. Salviati. Io molto volentieri mi fermerò, perché corro ancor io simil fortuna, e sto di punto in punto per perdermi, mentre mi conviene veleggiar tra scogli e onde così rotte che mi fanno, come si dice, perder la bussola. Però, prima che far maggior cumulo, proponete le vostre difficoltà. Sagredo. Voi, insieme con Aristotele, da principio mi separaste alquanto dal mondo sensibile per additarmi l'architettura con la quale egli doveva esser fabbricato. E con mio gusto mi cominciaste a dire che il corpo naturale è per natura mobile, essendo che si è definito altrove la natura esser principio di moto. Qui mi nacque un poco di dubbio, e fu, per qual cagione, Aristotele non disse che dei corpi naturali alcuni sono mobili per natura e altri immobili. Avvenga che, nella definizione vien detto la natura esser principio di moto e di quiete. Che se i corpi naturali hanno tutti principio di movimento, o non occorreva metter la quiete nella definizione della natura, o non occorreva indur tal definizione in questo luogo. Quanto poi, al dichiararmi quali egli intende essere i movimenti semplici, e come egli determina dagli spazi, chiamando semplici quelli che si fanno per linee semplici, che tali sono la circolare e la retta solamente, lo ricevo quietamente, né mi curo di sottilizzargli l'istanza della elica intorno al cilindro, che per essere in ogni sua parte simile a se stessa, par che si potesse annoverar tra le linee semplici. Ma mi risento bene alquanto nel sentirlo ristrignere, mentre par che con altre parole voglia replicare le medesime definizioni, a chiamare quello movimento intorno al mezzo, e questo sursum et deorsum, cioè in su e in giù, li quali termini non si usano fuori del mondo fabbricato, ma lo suppongono non pur fabbricato, ma di già abitato da noi. Che se il moto retto è semplice per la semplicità della linea retta, e se il moto semplice è naturale, sia pur egli fatto per qualsivoglia verso, dico in su, in giù, innanzi, indietro, a destra e a sinistra, e se altra differenza si può immaginare, purché sia retto, dovrà convenire a qualche corpo naturale semplice, o se no la supposizione d'Aristotele è manchevole. Vedesi inoltre che Aristotele accenna un solo essere al mondo il moto circolare e in conseguenza un solo centro al quale solo si riferiscano i movimenti retti in su e in giù. Tutti indizi che egli ha mira di cambiarci le carte in mano, e di volere accomodar l'architettura alla fabbrica e non costruire la fabbrica conforme ai precetti dell'architettura, che se io dirò che nell'università della natura ci possono essere 1000 movimenti circolari e in conseguenza 1000 centri, vi saranno ancora 1000 moti in su e in giù. Inoltre, ei pone, come è detto, moti semplici e moto misto, chiamando semplici il circolare e il retto, e misto il composto di questi. Dei corpi naturali chiama altri semplici, cioè quelli che hanno principio naturale al moto semplice, e altri composti, e i moti semplici li attribuisce a corpi semplici, e a composti il composto. Ma per moto composto e non intende più il misto di retto e circolare, che può essere al mondo, ma introduce un moto misto tanto impossibile quanto è impossibile a mescolare movimenti opposti fatti nella medesima linea retta, sì che da essi ne nasca un moto, che sia parte in su e parte in giù, e per moderare una tanta sconvenevolezza e impossibilità, si riduce a dire che tali corpi misti si muovono secondo la parte semplice predominante, che finalmente necessita altrui a dire che anche il moto fatto per la medesima linea retta è alle volte semplice, e talora anche composto. Sì, che la semplicità del moto non si attende più dalla semplicità della linea solamente. Nota. Tu, Aristotele, determini i moti semplici esser quelli che si fanno per linee semplici, la retta e la circolare. Ora, se la semplicità si deve attendere dalla semplicità della linea, il moto per una retta che passi per il centro sarà semplice e come tale potrà essere naturale di qualche corpo semplice. E tale ancora sarà quello che traversi il cerchio senza passare per il centro. Tuttavia, poi, tu dirai che il moto per la medesima retta sino al centro sarà contrario al conseguente per la medesima retta oltre al centro. E non vorrai più che il medesimo moto, che tu chiamavi semplice, mercé dell'esser fatto per un'istessa retta semplice, convenga al medesimo corpo semplice, e vorrai che nella stessa retta semplice siano moti contrarii. Per convenirsi il moto semplice al corpo semplice, bisogna che sia un moto la cui semplicità si attenda da altro che dalla semplicità della linea, perché così il moto al centro non sarebbe proprio naturale dei gravi più che il moto dal centro. Fine della nota. Simplicio. Oh, non vi par è la differenza bastevole se il movimento semplice assoluto sarà più veloce assai di quello che vien dal predominio? E quanto vien più velocemente all'ingiù un pezzo di terra pura che un pezzuol di legno? Sagredo. Bene, signor Simplicio, ma se la semplicità si ha da mutar per questo, oltre che ci saranno 100.000 moti misti, voi non mi saprete determinare il semplice. Anzi di più, se la maggiore e minor velocità possono alterare la semplicità del moto, nessun corpo semplice si muoverà mai di moto semplice. Avvenga che, in tutti i moti retti naturali, la velocità si va sempre aumentando e in conseguenza sempre mutando la semplicità, la quale, per essere semplicità, conviene che sia immutabile. E quel che più importa, voi graverete Aristotele d'una nuova nota, come quello che nella definizione del moto composto non ha fatto menzione di tardità né di velocità, la quale ora voi ponete per articolo necessario ed essenziale. Aggiugnosi che neanche potrete da cotal regola tra frutto veruno, imperocché ci saranno dei misti, e non pochi, dei quali altri si muoveranno più lentamente e altri più velocemente del semplice, come per esempio il piombo e il legno in comparazione della terra. E però tra questi movimenti quale chiamerete voi il semplice e quale il composto? Simplicio. Chiamerassi semplice quello che viene fatto dal corpo semplice e misto quel del corpo composto. Sagredo. Benissimo, veramente. E che dite voi, signor Simplicio? Poco fa volevi che il moto semplice e il composto mi insegnassero quali siano i corpi semplici e quali i misti, e ora volete che dai corpi semplici e dai misti io venga in cognizione di qual sia il moto semplice e quale il composto. Regola eccellente per non saper mai conoscere né i moti né i corpi. Oltre che già venite a dichiararvi come non vi basta più la maggior velocità, ma ricercate una terza condizione per definire il movimento semplice, per il quale Aristotele si contentò d'una sola, cioè della semplicità dello spazio. Ma ora, secondo voi, il moto semplice sarà quello che viene fatto sopra una linea semplice, con certa determinata velocità, da un corpo mobile semplice. Or sia come a voi piace, e torniamo ad Aristotele, il quale mi definì il moto misto esser quello che si compone del retto e del circolare, ma non mi trovò poi corpo alcuno che fosse naturalmente mobile di tal moto. Salviati. Torno dunque ad Aristotele, il quale, avendo molto bene e metodicamente cominciato il suo discorso, ma avendo più la mira di andare a terminare e colpire in uno scopo prima nella mente sua stabilitosi, che dove direttamente il progresso lo conduceva, interrompendo il filo, ci esce traversalmente a portar, come cosa nota e manifesta, che quanto ai moti retti in su e in giù, questi naturalmente convengono al fuoco e alla terra, e che però è necessario che oltre a questi corpi che sono appresso di noi ne sia un altro in natura al quale convenga il movimento circolare, il quale sia ancora tanto più eccellente quanto il moto circolare è più perfetto del moto retto. Quanto poi quello sia più perfetto di questo, lo determina dalla perfezione della linea circolare sopra la retta, chiamando quella perfetta e imperfetta questa. Imperfetta perché se è infinita, manca di fine e di termine. Se è finita, fuori di lei ci è alcuna cosa dove ella si può prolungare. Questa è la prima pietra, base e fondamento di tutta la fabbrica del mondo aristotelico, sopra la quale si appoggiano tutte le altre proprietà, di non grave né leggero, di ingenerabile, incorruttibile ed esente da ogni mutazione, fuori della locale, eccetera. E tutte queste passioni afferma egli esser proprie del corpo semplice e mobile di moto circolare, e le condizioni contrarie di gravità, leggerezza, corruttibilità, eccetera, le assegna a corpi mobili naturalmente di movimenti retti. Laonde, qualunque volta nello stabilito sin qui si scuopra mancamento, si potrà ragionevolmente dubitar di tutto il resto che sopra gli vien costrutto. Io non nego che questo, che sin qui Aristotele ha introdotto con discorso generale dipendente da principi universali e primi, non venga poi nel progresso riconfermato con ragioni particolari e con esperienze, le quali tutte è necessario che vengano distintamente considerate e ponderate, ma già che nel detto sin qui si rappresentano molte e non picciole difficoltà, eppur converrebbe che i primi principi e fondamenti fossero sicuri, fermi e stabili, acciocché più risolutamente si potesse sopra di quelli fabbricare, non sarà forse se non ben fatto, prima che si accresca il cumulo dei dubbi, vedere se per avventura, sì come io stimo, incamminandoci per altra strada, ci indirizzassimo a più diritto e sicuro cammino, e con precetti d'architettura meglio considerati, potessimo stabilire i primi fondamenti. Però, sospendendo per ora il progresso d'Aristotele, il quale a suo tempo ripiglieremo e partitamente esamineremo, dico che delle cose da esso dette sin qui convengo seco e ammetto che il mondo sia corpo dotato di tutte le dimensioni, e però perfettissimo, e aggiungo che come tale ei sia necessariamente ordinatissimo, cioè di parti con somme perfettissimo ordine tra di loro disposte, il quale assunto non credo che sia per essere negato né da voi né da altri. Simplicio. E chi volete voi che lo neghi? La prima cosa egli è d'Aristotele stesso, e poi la sua denominazione non par che sia presa d'altronde che dall'ordine che egli perfettamente contiene. Salviati. Stabilito dunque cotal principio, si può immediatamente concludere che, se i corpi integrali del mondo devono essere di loro natura mobili, è impossibile che i movimenti loro siano retti o altri che circolari. E la ragione è assai facile e manifesta, imperocché quello che si muove di moto retto muta luogo e, continuando di muoversi, si va più e più sempre allontanando dal termine onde si partì e da tutti i luoghi per i quali successivamente ei va passando. E se tal moto naturalmente se gli conviene, adunque egli, da principio, non era nel luogo suo naturale, e però non erano le parti del mondo con ordine perfetto disposte. Ma noi supponghiamo quelle esser perfettamente ordinate, adunque, come tali, è impossibile che abbiano da natura di mutar luogo e in conseguenza di muoversi di moto retto. Inoltre, essendo il moto retto di sua natura infinito, perché infinita e indeterminata è la linea retta, è impossibile che mobile alcuno abbia da natura principio di muoversi per linea retta, cioè verso dove è impossibile di arrivare, non vi essendo termine prefinito. E la natura, come ben dice Aristotele medesimo, non intraprende a fare quello che non può essere fatto, né intraprende a muovere dove è impossibile a pervenire. E seppur alcuno dicesse che, sebbene la linea retta in conseguenza il moto per essa è produttibile in infinito, cioè interminato, tuttavia però la natura, per così dire, arbitrariamente gli ha assegnati alcuni termini e dato naturali istinti a suoi corpi naturali di muoversi, a quelli io risponderò che ciò per avventura si potrebbe favoleggiare che fosse avvenuto nel primo caos, dove confusamente e inordinatamente andavano in distinte materie vagando, per le quali ordinare la natura molto acconciamente si fosse servita dei movimenti retti, i quali, sì, come muovendo i corpi ben costituiti li disordinano, così sono acconci a ben ordinare i bravamente disposti. Ma dopo l'ottima distribuzione e collocazione, è impossibile che in loro resti naturale inclinazione di più muoversi di motoretto, dal quale ora solo ne seguirebbe il rimuoversi dal proprio e natural luogo, cioè il disordinarsi. Possiamo dunque dire il motoretto servire a condurre le materie per fabbricar l'opera, ma fabbricata che l'è, o restare immobile, o se mobile, muoversi solo circolarmente. Se però noi non volessimo dir con Platone che anco i corpi mondani, dopo l'esser stati fabbricati e del tutto stabiliti, furono per alcun tempo dal suo fattore mossi di motoretto, ma che, dopo l'esser pervenuti in certi e determinati luoghi, furono rivolti a uno in giro, passando dal motoretto al circolare, dove poi si son mantenuti e tuttavia si conservano, pensiero altissimo e degno ben di Platone, intorno al quale mi sovviene aver sentito discorrere il nostro comune amico accademico Linceo. E se ben mi ricorda, il discorso fu tale: ogni corpo costituito per qualsivoglia causa in stato di quiete, ma che per sua natura sia mobile, posto in libertà si muoverà, tutta volta però che gli abbia da natura inclinazione a qualche luogo particolare, che quando è fusse indifferente a tutti, resterebbe nella sua quiete, non avendo maggior ragione di muoversi a questo che a quello. Dall'aver questa inclinazione ne nasce necessariamente che egli nel suo moto si anderà continuamente accelerando, e cominciando con moto tardissimo non acquisterà grado alcuno di velocità, che prima e non sia passato per tutti i gradi di velocità minori, o vogliamo dire di tardità maggiori, perché partendosi dallo stato della quiete, che è il grado di infinita tardità di moto, non ci è ragione nessuna per la quale debba entrare in un tal determinato grado di velocità prima che entrare in un minore e in un altro ancor minore prima che in quello. Anzi, par molto ben ragionevole passar prima per i gradi più vicini a quello d'ondei si parte e da quelli ai più remoti. Ma il grado di dove il mobile piglia a muoversi è quello della somma tardità, cioè della quiete. Ora, questa accelerazione di moto non si farà se non quando il mobile nel muoversi acquista, né altro è l'acquisto suo se non l'avvicinarsi al luogo desiderato, cioè dove l'inclinazione naturale lo tira, e là si condurrà egli per la più breve, cioè per linea retta. Possiamo dunque ragionevolmente dire che la natura, per conferire in un mobile, prima costituito in quiete, una determinata velocità, si serva del farlo muovere per alcun tempo e per qualche spazio di moto retto. Stante questo discorso, figuriamoci aver Iddio creato il corpo, verbigrazia di Giove, al quale abbia determinato di voler conferire una tal velocità, la quale egli poi debba conservar perpetuamente uniforme. Potremo, con Platone, dire che gli desse di muoversi da principio di motoretto e accelerato, e che poi, giunto a quel tal grado di velocità, convertisse il suo motoretto in circolare, del quale poi la velocità naturalmente convien essere uniforme. Sagredo. Io sento con gran gusto questo discorso, e maggiore credo che sarà dopo che mi abbiate rimossa una difficoltà, la quale è che io non resto ben capace come di necessità convenga che un mobile, partendosi dalla quiete ed entrando in un moto al quale egli abbia inclinazione naturale, passi per tutti i gradi di tardità precedenti che sono tra qualsivoglia segnato grado di velocità e lo stato di quiete, li quali gradi sono infiniti, sì che non abbia potuto la natura contribuire al corpo di Giove, subito creato, il suo moto circolare con tanta velocità. Salviati, io non ho detto, né ardirei di dire, che alla natura e a Dio fosse impossibile il conferir quella velocità che voi dite immediatamente, ma dirò bene che de facto la natura non lo fa, talché il farlo verrebbe ad essere operazione fuori del corso naturale e però miracolosa. Nota. Muovasi con qualsivoglia velocità, qualsi sia ponderosissimo mobile, e incontri qualsivoglia corpo costituito in quiete, benché debolissimo e di minima resistenza, quel mobile, incontrandolo, giammai non gli conferirà immediatamente la sua velocità, segno evidente di che ne è il sentirsi il suono della percossa, il quale non si sentirebbe, o per dir meglio, non sarebbe, se il corpo che stava in quiete ricevesse nell'urto del mobile la medesima velocità di quello. Fine della nota. Sagredo. Adunque voi credete che un sasso, partendosi dalla quiete ed entrando nel suo moto naturale verso il centro della terra, passi per tutti i gradi di tardità inferiori a qualsivoglia grado di velocità? Salviati. Credolo, anzi, ne son sicuro, e sicuro con tanta certezza che posso renderne sicuro voi ancora. Sagredo. Quando, in tutto il ragionamento d'oggi, io non guadagnassi altro che una tal cognizione, me lo riputerei per un gran capitale. Salviati. Per quanto mi par di comprendere, dal vostro ragionare, gran parte della vostra difficoltà consiste in quel dover passare in un tempo, ed anco brevissimo, per quegli infiniti gradi di tardità precedenti a qualsiasi velocità acquistata dal mobile in quel tal tempo. E però, prima che venire ad altro, cercherò di rimuovervi questo scrupolo, che doverà essere agevol cosa, mentre io vi replico che il mobile passa per i detti gradi, ma il passaggio è fatto senza dimorare in Veruno, talché, non ricercando il passaggio più di un solo istante di tempo e contenendo qualsivoglia piccol tempo infiniti istanti, non ce ne mancheranno per assegnare il suo a ciascheduno degli infiniti gradi di tardità, e sia il tempo quanto si voglia breve. Sagredo. Sin qui resto capace. Tuttavia mi par gran cosa che quella palla d'artiglieria, che tal mi figuro essere il mobile cadente, che pur si vede scendere con tanto precipizio, che in manco di 10 battute di polso passerà più di 200 braccia di altezza, si sia nel suo moto trovata congiunta con sì picciol grado di velocità, che, se avesse continuato di muoversi con quello senza più accelerarsi, non l'avrebbe passata in tutto un giorno. Salviati. Dite pure in tutto un anno, né in 10, né in 1000. Siccome io mi ingegnerò di persuadervi, ed anco forse senza vostra contraddizione ad alcune assai semplici interrogazioni che io vi farò. Però ditemi se voi avete difficoltà nessuna in concedere che quella palla nello scendere vada sempre acquistando maggior impeto e velocità. Sagredo. Sono di questo sicurissimo. Salviati. E se io dirò che l'impeto acquistato in qualsivoglia luogo del suo moto sia tanto che basterebbe ricondurla a quell'altezza donde si partì, me lo concedereste? Sagredo. Concedereilo senza contraddizione, tutta volta che la potesse applicare, senza essere impedita, tutto il suo impeto in quella sola operazione di ricondursi medesima, o altro uguale a sé, a quella medesima altezza, come sarebbe se la terra fosse perforata per il centro e che lontano da esso 100 o 1000 braccia si lasciasse cadere la palla. Credo sicuramente che ella passerebbe oltre al centro, salendo altrettanto quanto scese, e così mi mostra l'esperienza accadere d'un peso pendente da una corda che, rimosso dal perpendicolo, che è il suo stato di quiete, e lasciato poi in libertà, cala verso detto perpendicolo e lo trapassa per altrettanto spazio, o solamente tanto meno quanto il contrasto dell'aria e della corda o di altri accidenti l'impediscono. Mostrami di stesso l'acqua che, scendendo per un sifone, rimonta altrettanto quanto fu la sua ascesa. Salviati. Voi perfettamente discorrete, e perch'io so che non avete dubbio in conceder che l'acquisto dell'impeto sia mediante l'allontanamento dal termine donde il mobile si parte e l'avvicinamento al centro dove tende il suo moto, arrete voi difficoltà nel concedere che due mobili uguali, ancorché scendenti per diverse linee, senza veruno impedimento, facciano acquisto di impeti uguali, tutta volta che l'avvicinamento al centro sia uguale? Sagredo, non intendo bene il quesito. Salviati, mi dichiarerò meglio, consegnarne un poco di figura. Però noterò questa linea AB parallela all'orizzonte e sopra il punto B drizzerò la perpendicolare BC e poi congiungerò questa inclinata CA. Intendendo ora la linea CA essere un piano inclinato e squisitamente pulito e duro, sopra il quale scenda una palla perfettamente rotonda e di materia durissima, ed una simile scenderne liberamente per la perpendicolare CB, domando se voi concedereste che l'impeto dell'ascendente per il piano CA, giunta che la fosse al termine A, potesse essere uguale all'impeto acquistato dall'altra nel punto B, dopo l'ascesa per la perpendicolare CB. Sagredo. Io credo risolutamente di sì, perché in effetto amendue si sono avvicinate al centro egualmente e per quello che pur ora ho conceduto, gli impeti loro sarebbero egualmente bastanti a ricondur loro stesse alla medesima altezza. Salviati, ditemi ora quello che voi credete che facesse quella medesima palla posata sul piano orizzontale AB. Fine della giornata prima, parte seconda. Registrazione di Emanuela.